In media stop virus. Il mondo dei media nell'era di Twitter. Bentornati alla seconda puntata di In Media Stat Virus, Francesca Clementoni e Pierluca Santoro di nuovo in studio con voi per questa passeggiata nei media. Buongiorno Pierluca. Buongiorno a te Francesca, buongiorno a voi tutti e ben ritrovati. Allora, nella prima puntata abbiamo parlato di rapporto tra i politici e i social media. Oggi invece vogliamo parlare di mainstream e social media e il rapporto amore-odio che c'è tra queste due figure. Sì, parliamo di questo argomento, di questo tema. Per mainstream media intendiamo, giusto per qualificare un attimo l'ambito di riferimento, i cosiddetti mezzi di massa o mezzi tradizionali, mentre per social media intendiamo tutti quegli strumenti, tutti quei mezzi quali Facebook, Twitter, LinkedIn, i blog, gli strumenti e i mezzi fatti dalle persone che attivano delle relazioni sociali. E anche questi tra loro hanno relazioni sociali in un qualche modo. Assolutamente sì, sicuramente i social media, l'avvento dei social media da Facebook, il social network più famoso e più popoloso dell'universo, con oltre 1 miliardo di utenti iscritti sul pianeta, a tutti gli altri, hanno assolutamente impattato sul mondo dei mainstream media, condizionandolo fortemente. Lo condizionano fortemente sotto il profilo dei contenuti e sotto il profilo della tempistica dell'informazione, perché da un lato rendono disponibili una serie di contenuti che prima invece venivano resi disponibili soltanto dai mezzi tradizionali, dai mezzi di massa. Basta pensare, per citare uno dei casi più recenti, no, al fatto che il nostro presidente del Consiglio, Renzi, che tanto ama Twitter come sappiamo, nelle ultime conferenze stampa con i giornalisti, in realtà mentre faceva la conferenza stampa con i giornalisti stava twittando contemporaneamente quello che diceva, rendendolo immediatamente disponibile. Quindi questo è ovvio che condiziona i media, i mainstream media, poiché ovviamente a questo punto banalmente la notizia non è più Renzi ha detto questo o quell'altro, adesso per stare nell'esempio di Renzi ovviamente, perché le persone lo sanno già, è già stato diffuso, quindi c'è, come si suol dire, un effetto di disintermediazione delle informazioni. I mezzi tradizionali, a causa per via dei social media, non sono più degli intermediari del messaggio, da un lato. Dall'altro lato c'è ovviamente, come dicevo, tutto il discorso della tempistica. Twitter, che è considerato il newswire, quindi il portatore di notizie per eccellenza tra i social, che infatti tanto è amato oltre che dal nostro primo ministro, dai giornali e dai giornalisti, Twitter tempo fa fece un annuncio per promuovere se stesso dove diceva Twitter è più veloce del terremoto, perché appunto le notizie, no, la notizia del terremoto era arrivata in 7 secondi da una parte all'altra del mondo attraverso Twitter. Quindi anche lì tutta una serie di notizie, di informazioni, di contenuti corrono con tempi ai quali le redazioni dei giornali, dei telegiornali e via dicendo non riescono a seguire, evidentemente. Bene, andiamo in musica, poi rientriamo e continuiamo a parlare appunto di rapporto tra mainstream e social media. Se volete interagire con noi, se avete delle domande o se volete suggerirci un tema per le prossime trasmissioni, potete farlo usando l'hashtag IMSV14, twittando all'account di Radio Fujiko o al mio personale PendoElRay. Aspettiamo di poter interagire con voi anche in questo modo. Thank you.

dare senso alla grande massa di informazioni affinché le persone possano comprendere il vero senso dell'informazione, e in questo modo il lavoro del giornalista continua ad avere, in modo diverso rispetto a prima, un suo senso, un suo valore e una sua attualità. Ovviamente, come ci siamo detti che i social media influenzano i mainstream media, è chiaro che avviene assolutamente altrettanto. Ecco, in che senso è il linguaggio che viene preso dal mainstream per essere utilizzato nei social, oppure sono delle schematicità, se vuoi, di sguardo verso la notizia o l'evento che succede? Direi che fondamentalmente l'influenza è un'influenza in termini di amplificazione, nel senso che se uno vede quali sono i temi e le testate più condivise a livello sui diversi social, vedrà che gli articoli più condivisi, per fare un esempio concreto, sono quelli di Repubblica.it, che è il quotidiano online più visitato d'Italia. Quindi in realtà i social fanno da amplificatore dei mainstream media, diventa un'amplificazione sociale della notizia attraverso questi canali. Questo avviene sia in ambito informativo che avviene anche nel mondo dello spettacolo. Quando si fa X Factor, adesso per dire la prima trasmissione che mi viene in mente, ovviamente la gente mentre sta guardando la trasmissione Twitter, scrive commenti su Facebook e amplifica la portata del messaggio di X Factor, ammesso che X Factor abbia un messaggio da dare, ma questo è un altro discorso. Torniamo in musica e ritorniamo su questo discorso delle trasmissioni o del mainstream che utilizza in un qualche modo come fonte anche i social media. Chi muore al lavoro, na na na na na na na na na na. di invidia o di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifunto, chi ha fatto mio faro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta a prever, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di stanco, chi tutte le sere. Cerca il petrolio, chi dipinge ad olio, chi chiede un lavoro. Prima di andare in musica parlavamo di come il mainstream usa i social network. Hai fatto l'esempio di X Factor, ma mi vengono in mente anche una serie di programmi televisivi informativi oppure programmi radiofonici che usano i commenti, usano in senso buono i commenti del pubblico, di chi segue la trasmissione, come fonte di informazione stessa, come spunto per alimentare il dibattito e portarlo avanti. Questo sarebbe, come dire, la parte positiva della questione. In realtà credo che a oggi nella maggior parte dei casi resti un obiettivo incompiuto quello che dici giustamente, Francesca, nel senso che ovviamente nel tempo progressivamente tutte le testate, tutte le televisioni, tutte le radio hanno aperto dei loro canali sui social media, degli account, come si suol dire, no? Su Facebook, su Twitter e anche su altri social meno noti. In realtà questi canali a oggi vengono utilizzati prevalentemente come uno strumento, appunto, come dicevamo prima, per amplificare la portata del messaggio e quindi per fare quella che viene chiamata brand awareness, notorietà di marca, cioè io faccio sì che tu condivida il mio messaggio e se tu continui a condividere Corriere.it, cambiamo testata per non fare sempre gli stessi nomi, ovviamente Corriere.it acquisisce una maggior notorietà e questo è un primo obiettivo. L'altro obiettivo, ancor più commerciale, è quello che attraverso i social media le testate, in particolare i quotidiani online, ma non solo, basti pensare anche a TGcom 24, giusto per citare anche una televisione, portano traffico, visitatori ai loro siti web, visitatori che generano quindi, come evidente, dei click che generano degli introiti pubblicitari. Quindi questo è, come dire, il meccanismo prevalente. Quindi anche un mi piace ha un suo valore commerciale. Un mi piace di per sé stesso non ha questo valore commerciale di cui stiamo parlando, nel senso che diversi dati dimostrano che non c'è una correlazione fra il numero di mi piace su una pagina e il numero di visite poi al corrispondente sito web. È molto difficile, per non dire impossibile, trovare una correlazione. Il mi piace però dimostra che c'è un interesse più o meno forte o più o meno labile nei confronti di quella determinata testata, di quella determinata trasmissione, di quel determinato media. Quindi, se io ti piaccio, è un inizio per poter pensare di stabilire una relazione, come sempre avviene fra le persone. Se tu ed io ci piacciamo, abbiamo la possibilità di pensare di iniziare una relazione. Cosa che elementare Watson, se invece non ci piacciamo, a parità di condizione, è molto più difficile. Su questo che poi deve basarsi, e fino adesso ahimè è stato fatto poco o nulla, il lavoro da parte dei mainstream media sui social media. Stante che tu piaccia Pierluca, a questo punto come sviluppo, come articolo e come, nel senso buono del termine, utilizzo questa relazione. C'è anche un discorso forse sull'argomento. Il mio mi piace potrebbe anche essere sul contenuto che tu hai trattato e magari sollecitarti a continuare a parlare di quel contenuto. Assolutamente sì, è chiaro che appunto in questo modo io, nel senso mainstream media, così come lo stiamo definendo per sintesi, se andassi ad analizzare, è un lavoro ovviamente estremamente articolato che non si fa in un giorno e probabilmente neanche in una settimana, però se io andassi, io responsabile della testata, andassi ad analizzare cosa piace e perché, magari analizzando non soltanto il mi piace che è un indicatore, ma anche cosa è stato maggiormente condiviso e forse ancor più cosa è stato maggiormente commentato, che sono i tre parametri di base per valutare il livello di coinvolgimento, quello che viene chiamato engagement, usando un termine anglosassone, delle persone. Prendessi un anno delle mie pubblicazioni sui social e andassi a fare questo tipo di analisi, cosa che io ho l'impressione non faccia nessuno, almeno in termini di temi, a quel punto avrei sicuramente un forte e importante indicatore di quelli che sono i gusti, le preferenze dei miei lettori, e questo in qualche modo mi fornirebbe delle indicazioni estremamente preziose su come avvicinarmi, servirli meglio. River wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Cause oh, baby, there ain't no mountain high enough. Getting to you. chiudere questa nostra trasmissione dobbiamo anche parlare di lavoro, quindi il lavoro, le nuove professionalità, le vecchie e le nuove professionalità, come si integrano e che cosa serve. Per fare quello di cui in sintesi abbiamo parlato, da un lato, come ci siamo detti, cambia il ruolo e quindi inevitabilmente la natura del lavoro del giornalista. Ed è un aspetto che abbiamo trattato. L'altro aspetto è che sicuramente per fare anche banalmente l'analisi dei dati di cui parlavamo poco fa, è ovvio che vengono richieste nuove professionalità, quindi parliamo di professionalità quale quella di data scientist, quindi colui che è uno scienziato dei dati, parliamo di data journalist, parliamo di social media editor, di colui che si occupa di gestire il rapporto fra la parte giornalistica della testata, la parte più commerciale e di marketing di una testata e il pubblico, la cosiddetta audience. Anche su questo in Italia c'è, per fortuna, così ho la speranza di poter sopravvivere per ancora un quarto d'ora prima della pensione, c'è pochissima, le testate non sono attrezzate da questo punto di vista, sono figure professionali che ancora non sono entrate nelle redazioni, se non in minima parte, e delle quali i mainstream media devono e dovranno sempre più dotarsi se vogliono appunto integrarsi positivamente con i social media e quindi fondamentalmente con le persone, con il pubblico. Perfetto, il nostro tempo a disposizione anche questa volta è terminato, ci ritroviamo qui martedì prossimo. Di che cosa parliamo martedì prossimo, Pierluca? La prossima volta parliamo di come sopravvivere alla crisi dei media tradizionali, di quello che io ho chiamato il dilemma del prigioniero, quindi facciamo una sintesi della crisi dei modelli di business tradizionali e di quali possono essere i modelli di business alternativi. Diamo l'appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 13, un saluto a tutti coloro che sono in ascolto e rimanete sui 103.100 di Radio Città Fujiko. Arrivederci. Work it, make it, do it, makes us in the media, stop the virus. Harder, better, faster, stronger. Il mondo dei media nell'era di Twitter. Our work is never over.